raga raga, no, non fatti vado a casa, no, non patti con la para, patti con la guardia, sai che combatto fumando sto personal, yeah. Fumo personal, yeah, yeah. Poi dai ruota ruota ruota, sto lontano vedo casa, bro che piange la scoperta, prendo una rimasta, tu affanculo, sto accendendo un personal. Personale, yeah. Da 16 anni è l'unica cura, frate, se sto male. Stessa spiaggia, stesso mare. Oh, oh, ricordo che bello che era il liceo. Eravamo ricchi con 10 G dietro quello scarabeo. Ne vuoi un po'? Poi mi ha lasciato quando tutti gli altri mi hanno detto di no. Sotto casa i manetti arrivano due camionette, poi diamo via, ma è per questo che lei mi vuole. Perché fumo tranquillo prendendo il sole. No, non mi servono mai le pistole, perché stando zitto già faccio rumore, perciò fumo come un raga raga raga. No, vado palano, non vado piano, lanciando un mezzetto dritto sopra il petto, fra quando saliamo. Raga raga raga, no, non fatti vado a casa, no, non patti con la para, patti con la guardia, sai che combatto fumando sto personal, yeah. Fumo personal, yeah. Fumo personale. Pensavo che ero secco, ma ne ancora una, meno male. Mi ricordo ancora era il 2003. Tutto il giorno in giro dopo siesta, il mio primo tiro in una fiesta. C'era anche il carabiniere, però stava in ferie, quindi festa. Pensa, forse non dovevo dirla questa. Non mi voglio partoriare, costipare, costepare. Da cartella esattoriale, ma madre natura dice fuma sciallo, tanto vale. Collo tutto in una, rollo su misura, taglio sartoriale. Sto lontano tipo quasar, no, non sbatti vado a casa, ciao, ciao. Raga raga raga, no, non sbatti vado a casa, no, non patti con la para, patti con la guardia, sai che combatto fumando sto personal, yeah. Fumo personal, yeah, yeah. Poi dai ruota ruota ruota, sto lontano vedo casa, bro che piange la scoperta, prendo una rimasta, tu affanculo, sto accendendo un personal. Fumo personale, yeah, yeah. Io ho preso male, fumo un personale, solo per suonare non mi fa. Vesti male, se avresti male, te cresci frate, dopo cambia. Fanculo tanto non vale niente, ma da che roba fai? Che cosa facci sai? Morto senza wifi. Si stava meglio distanti, fuck. Giuro era meglio quando tu stavi là. Parlavi meno di gente, ma le dicevi fake, dimenticando che tu eri il primo fake. Io stavo con mio brother, come muore l'ansia, non mi fotte proprio a nome. Con il cuore non ci vado a nozze. Mi sto facendo solo castor, come può un uomo dir stop. Oh. Vado a casa, no, non patti con la para, patti con la guardia, sai che combatto fumando sto personal, yeah. Fumo personal, yeah, yeah. Poi dai ruota ruota ruota, sto lontano vedo casa, bro che piange la scoperta, prendo una rimasta, tu affanculo, sto accendendo un personal.